La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, 16:31 primi 8 secondi, siamo qua in diretta agli studi di Milano e Oscar Giannino come sempre vi ringrazia per l'ascolto in diretta o in podcast e vi ricorda il numero di telefono per intervenire in diretta 800 24 00 24 e per le vostre opinioni 349 238 6666. Vi dico subito che oggi parliamo, come avverrà in altre trasmissioni prima del 17 di aprile in vista del referendum, appunto di uno dei temi centrali toccati dal referendum energetico, per cui è convocato il referendum abrogativo il 17 di aprile prossimo, tra due domeniche. Lo ricordo a tutti, è uno dei sei quesiti di un referendum abrogativo che è stato promosso per la prima volta, tra l'altro, nella storia repubblicana, secondo il meccanismo consentito dalla Costituzione, di referendum abrogativi promossi non solo per raccolta di firme popolare ma anche per delibere di consigli regionali. Erano 10 le regioni che avevano depositato in Corte di Cassazione la loro richiesta deliberata nei consigli regionali, poi sono scese a 9, 7 a guida PD del centro-sud e poi le due a guida di centrodestra, Liguria e Veneto. Erano 6 quesiti relativi alla riapertura delle concessioni per la ricerca e l'estrazione di fonti fossili nel nostro paese, che il governo Renzi aveva disposto con il decreto Sblocca Italia nel 2014, cambiando quindi il veto che era stato posto con l'ultimo governo di centrodestra, ministro Prestigiacomo, e poi confermato anche dal governo Monti. Questi 6 quesiti nascevano dal fatto che le regioni innanzitutto contestavano l'autorità del governo di assumere decisioni di questo tipo in maniera lesiva della competenza concorrente che con il testo ancora vigente della Costituzione in materia energetica c'è tra Stato e regioni, e poi nel tempo però sono diventate anche referendum contro la trivellazione in generale, no triv è la sigla, no? Alcuni governatori del PD sono messi alla testa perché altri hanno nel tempo, poi dopo la retromarcia fatta dal governo nella legge di stabilità 2016, con cui il governo Renzi invece di affrontare esplicitamente la questione ha inteso, per così dire, aggirare i quesiti referendari, se non che nella legge di stabilità si sono dimenticati di un punto, che è quello del quesito residuo lasciato in vita dalla Corte Costituzionale, quello su cui si vota il 17 di aprile, e quello che fa coincidere la durata di una concessione con la durata del bacino da cui si estrae, e quindi in realtà è un quesito su un aspetto del tutto secondario. Nel frattempo però, per via di tutti questi testa coda, la situazione si è inciprignita, perché oramai è evidente che se si fa il quorum e se vince l'abrogazione, l'interpretazione che daranno i vincitori sarà quella di far smettere anche le concessioni precedenti che restano in realtà operative. Nel frattempo a tutto questo, quindi, abbiamo dato un calcio a, c'erano più o meno 16 miliardi di intenzione di investimento da parte delle compagnie energetiche internazionali e non solo, anche dell'Eni ovviamente, nel nostro paese, che si erano già ridotte da 16 a 6 miliardi dopo l'ultima legge di stabilità. Fin troppo facile immaginare che con quello che sta succedendo si azzera anche questa seconda dote di investimenti. 5 di quei 6 miliardi erano nel sud, sarebbero ancora nel sud. Su tutto questo si innestano le indagini giudiziarie in corso da parte della Procura di Potenza, che hanno portato già alla dimissione del ministro Guidi. Io ricordo che ci sono 3 filoni di indagine, vi sto ricapitolando tutto perché la puntata di oggi è una puntata informativa per via di uno scoop, di un colpo giornalistico, di una notizia che il nostro ospite che vi presento tra poco oggi ha scritto su Sole 24 Ore. I 3 filoni di indagine che sono in corso sono relativi, il primo alla stessa vicenda che ha portato ieri inopinatamente, mentre Renzi in direzione del PD stava dicendo le indagini della Procura di Potenza sono come le Olimpiadi, ogni 4 anni ma non vanno mai a sentenza, invece ieri c'è stata una sentenza di primo grado relativo a uno dei 3 filoni di indagine, cioè all'impianto che molti di voi ormai riconoscono a nome, l'impianto di Tempa Rossa, quindi Total. C'è stata una condanna degli ex vertici Total per come fu avviata la costruzione dell'impianto estrattivo di Tempa Rossa, era un'inchiesta del 2008, sentenza di primo grado, andrà in prescrizione, ma insomma condanne di un certo peso, fra i 2 e i 7 anni, e questo è il primo filone, perché ancora oggi e sull'impianto di Tempa Rossa, sullo sblocco in particolare dei lavori per l'impianto di Tempa Rossa, che insistevano gli emendamenti presentati dal ministro Guidi, riferendone passo passo al suo compagno, sia nello sblocca Italia che in legge di stabilità. Primo filone. Il secondo filone invece è quello per il quale sono indagati i dirigenti dell'ENI ed è relativo al centro Oli dell'ENI di Viggiano, e l'indagine è aperta perché ci sarebbe un traffico illecito di rifiuti prodotti nel centro, cioè l'accusa è quella di aggirare le codificazioni europee sui prodotti tossici, ed è particolarmente di questo che tra poco iniziamo a parlare. Poi c'è un terzo filone che a me lascia veramente stupefatto, che è relativo a presunte ipotesi per le quali la legge navale di rifinanziamento della Marina Militare, che è un provvedimento su cui si è discusso per quasi 10 anni, passata per consentire alla Marina di avere piattaforme operabili almeno il minimo indispensabile di esse, visto che vanno in dismissione una dopo l'altra le vecchie fregate maestrali, che tutto questo sia collegato in realtà, lo sblocco delle risorse, la definizione stessa del provvedimento, ha dei favori fatti ai terminal energetici al porto di Augusta, e ancora una volta poi con il compagno del ministro Guidi di mezzo, ma non solo lui. Allora, su lo sfondo di questa indagine, oggi un collega, un bravissimo giornalista, guarda le carte, perché i giornali sono sempre pieni di reazioni a quello che succede, e soprattutto viva il buon giornalismo, che esiste perché spiega e va a vedere le fonti, le carte, per capire che cosa davvero succede. Stiamo parlando esattamente della disciplina di alcuni particolari tecnici del processo di estrazione e trattamento dei processi di estrazione relativi appunto al centrale di Viggiano. E io adesso vi presento l'ospite e vi prego di ascoltare che cosa vi spiegherà, perché il combinato disposto, come si dice con gergo da maresciallo dei carabinieri nei verbali del mattinale, delle norme italiane, scoprirete, come ho scoperto anch'io leggendolo e per questo lo ringrazio stamattina, che nella realtà l'ENI è costretto a fare esattamente ciò per cui oggi dei suoi funzionari sono indagati. Voi mi direte: ma che cavolo stai dicendo? State difendendo l'ENI, la solita radio di Confindustria? No, noi non difendiamo nessuno, viva le indagini della magistratura, di cui noi non conosciamo nel dettaglio i provvedimenti, però c'è una piccola cosa da chiarire. Leggendo le carte, un buon giornalista dice: bah, è un po' incomprensibile quello che succede. Allora, chi ha scritto questo pezzo, ne scrive di bellissimi tutti i giorni su Sole 24 Ore, ma non voglio fargli troppo la sviolinata, è Jacopo Giliberto, che è in studio qui e io lo ringrazio. Grazie Jacopo. Grazie Oscar e grazie agli ascoltatori. Allora, vogliamo spiegare che cosa hai scoperto guardando le carte relative a che cosa deve fare l'impresa, e l'ENI in particolare, ma una qualunque impresa che avesse in gestione il centro di Viggiano? Allora, divido in due filoni, come hai diviso tu prima in 3 filoni l'inchiesta, divido in 2 filoni il tema. Il primo è la cosiddetta riniezione delle acque di giacimento, delle acque minerali, acque che sono nei giacimenti. Il petrolio è insieme ad acqua nascosto nella roccia, non sono delle cavità, sono rocce porose, rocce impregnate come quelle che ci sono nelle scogliere lungo il mare, che sono bagnate di acqua. Ecco, queste sono bagnate di un misto di acqua e petrolio. La trivella va giù, preleva il pozzo, preleva questo fluido misto di acqua e petrolio, e abitualmente, dopo aver estratto il petrolio, l'acqua ritorna giù dove è rimasta per milioni di anni, per intere ere geologiche. Questa è una cosa che si fa abitualmente in tutti i pozzi di petrolio o di gas anche, in cui è presente anche acqua. E queste acque geologiche vengono smaltite in genere in questo modo, fatti salvi ovviamente condizioni di impianto, diverse tipologie, ma È una prassi abbastanza comune. La legge italiana dice che il, e questa era la prima parte, la seconda parte, il secondo filone, la legge italiana dice che, attenzione, è vietato scaricare scarichi, rifiuti, nel sottosuolo. Giustissimo. E quindi le acque di scarico miste al petrolio che si estraggono una volta che si separa il petrolio non dovrebbero essere. Non dovrebbero essere. Giustamente gli scarichi non devono essere messi sottoterra, ovviamente. Fatti salvi alcuni tipi di impianto, cioè quegli impianti nelle quali le acque vengono ricacciate lì dove stavano prima. Le miniere, le gallerie dei treni o delle autostrade quando si scava e così via, cose di questo tipo. Allora, in questi casi possono essere sotto autorizzazione, sotto controllo, tutte le normative ovvie di gestione di queste cose qui, si può fare. E c'è un capitoletto del codice dell'ambiente, legge 152 eccetera eccetera, che dice che si può fare, fatte ovviamente l'accordo con le regioni, si può fare con i giacimenti di petrolio. Allora, cosa fa l'ENI e cosa fa la regione Basilicata? Fanno un'autorizzazione integrata ambientale, che è l'autorizzazione alla gestione dell'impianto. Le cosiddette AIA, visto AIA, che viviamo gli acronimi. La cosiddetta AIA, che è l'autorizzazione ufficiale che, considerati tutti gli aspetti ambientali, industriali, politici, eccetera, eccetera, economici, dice che quel tale impianto, oltre una certa dimensione, secondo le regole europee, può essere autorizzato a essere esercito, gestito secondo le seguenti modalità. E questo lo fa la regione Basilicata, non lo fa il governo nazionale corrotto perché ha sentito quello, lo fa la regione Basilicata. La regione Basilicata. La regione Basilicata nel 2011... rinnova questa autorizzazione, scade ogni certo numero di anni, nel 2011 rinnova, rinnova l'autorizzazione al centro Oli di Viggiano e dice, a pagina 50 degli allegati tecnici che spiegano nel dettaglio come deve essere gestito l'impianto, a pagina 50 scarichi delle acque reflue, gli scarichi delle acque che escono dal giacimento, possono essere riniettate, anzi devono essere riniettate, vanno. Possono o devono? Devono. Vanno, vengono, vengono. Vengono. Riniettate, indicativo presente, vengono riniettate e definisce anche il luogo in cui riniettarle. Il pozzo, dove c'è il giacimento, Costa Molina 2, questo è il nome del pozzo. Allora l'ENI è tenuta a fare questo adempimento. È tenuta perché se si viola l'AIA, l'autorizzazione ambientale integrata, si entra nel segmento penale, è un reato, si va in galera. Quindi per non andare in galera il dirigente dell'ENI deve prendere quelle acque che escono separate dal petrolio e rimetterle lì dove stavano per alcuni milioni d'anni, dove erano rimaste, rimetterle giù sotto terra a grande profondità, nello stesso giacimento. E questo lo deve fare. Però viene accusata di averlo fatto ed è reato perché immette acque tossiche, acque pericolose, cioè, nel sottosuolo. Cioè, per essere ancora più sintetici, e spero non però commettendo un errore nella sintesi, cari ascoltatori, è reato immettere acque tossiche nel sottosuolo, secondo il codice ambientale. Secondo l'autorizzazione invece ambientale all'impianto, che disciplina in maniera, come sempre, ed è giusto che sia, ogni singolo aspetto di come deve essere gestito ed esercito l'attività da parte del concessionario in pozzi estrattivi, lì c'è scritto invece che bisogna reiniettare l'acqua, perché se non fosse reiniettata sarebbe reato pure quello. Assolutamente così. Diventa reato perché non si rispetta l'autorizzazione. Ho capito. Ma come si... Allora, in questo caso, io mi metto nei panni dell'ENI. Noi non abbiamo sentito l'ENI, non stiamo patrocinando l'ENI. Vi stiamo semplicemente spiegando un classico caso di come funzionano le regole, le autorizzazioni in generale, quelle ambientali poi in particolare nel nostro paese. È reato la fattispecie A... Però è reato il contrario, l'opposto di A. Come diavolo si fa a venire a capo di questa cosa? Io su questo vi chiederei di intervenire. Naturalmente ho tutte le telefonate all'800240024, sono ben accolte, anche per dirci che idea vi siete fatto, quanto è colpevole il PD, Renzi, cosa voterete al referendum. Benissimo, però mi interessa capire cosa pensate una volta che scoprite che nel codice ambientale dei reati, quindi ambientali, c'è il reato se si immetto acqua tossica che era mista a petrolio nel sottosuolo, e se poi scoprite però che è reato anche non farlo, visto che l'azienda che esercisce il pozzo, che gestisce il pozzo, è tenuta a farlo, perché questa è una delle condizioni che gli è stata imposta. Poi vi spiegheremo perché, a che cosa serve rimettere quest'acqua, perché non è che improvvisamente la Basilicata è impazzita, ci sono delle ragioni geominerarie eccetera eccetera. Intanto adesso abbiamo però un minuto di pausa, come sempre, per le informazioni sulle strade, e torniamo tra un minuto con Jacopo Giliberto a scoppiarvi a occuparci di questo singolare paradosso italiano, uno dei tanti. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta con Jacopo Giliberto del Sole 24 Ore, che stamattina è andato a guardare, a proposito di uno dei tre filoni delle indagini ambientali che stanno tempestando la politica italiana in vista del referendum del 17 di aprile, hanno portato già le dimissioni per conflitto di interesse, non perché sia indagata, ma il conflitto di interesse palese dell'ex ministro Guidi, perché informava passo passo il suo compagno degli emendamenti proposti a favore dello sblocco dell'impianto di Tempa Rossa, che è uno dei tre filoni di indagine. L'altro è quello del centro di Viggiano, di cui stiamo parlando, cioè il centro in cui si trattano i materiali che vengono estratti da pozzi petroliferi a Viggiano, e poi c'è il terzo filone che riguarda la marina e così via. E Jacopo Giliberto vi ha appena spiegato quello che stamattina trovate scritto per esteso sul Sole 24 Ore. In realtà l'ENI, che si trova la compagnia che gestisce il pozzo a Viggiano, da una parte c'è il codice ambientale che dice è reato rimettere l'acqua che sale su, viene estratta insieme al petrolio nel sottosuolo, però dall'altra, nell'autorizzazione ambientale emanata dalla regione Basilicata, c'è scritto che l'acqua invece va esattamente rimessa nel sottosuolo. Siccome questo è uno dei punti forti dell'accusa sull'inquinamento delle autorità estrattive, le falde freatiche eccetera eccetera, scoprire questa contraddizione nelle norme italiane, sono reati entrambi, capite che ci fa forse riflettere. La domanda che faccio a Jacopo Giliberto a questo punto è: ma perché un'autorizzazione ambientale dispone che la compagnia che gestisce il pozzo debba reimmettere nel sottosuolo l'acqua che aveva tirato su frammista a petrolio? Sono sostanzialmente due i motivi della rimissione, riniezione delle cosiddette acque di strato. Uno è un motivo geologico e l'altro è un motivo industriale. Il motivo industriale è semplice: tirando fuori il petrolio, là sotto un po' di pressione si perde, quindi è sempre più ostico il petrolio, a mano che si estrae, sempre più duro da tirar fuori. Immettendo l'acqua si riporta la pressione, si rende più fluido il petrolio, è più facile di nuovo andare a estrarre quello che c'è ancora sotto. E poi c'è un motivo geologico, cioè consolidare gli strati geologici di roccia porosa, in modo che non ci siano cedimenti interni, quelle cosiddette sismicità indotte, cioè quei movimenti nel sottosuolo profondissimo. Ripeto, non sono delle cavità, non sono delle caverne. No, certo. Ecco, sono queste essenzialmente. Però siccome si tratta di roccia porosa, se uno gli leva tutta la parte liquida di cui sono impregnate, è chiaro che la resistenza muta degli strati, quindi qualche frana sottostante ci può essere, così via, cosa che non solo danneggia l'impianto o magari lo compromette, ma può creare anche altri problemi. E l'acqua è comunque più pulita di quella che usciva, perché quella che usciva era acqua con tanti idrocarburi. Qui ti volevo, perché adesso vedrai i nostri ascoltatori che cosa ti chiedono. Cominciamo con Davide da Roma. Davide, prego. Sì, pronto, buonasera. Buonasera. Un attimo solo che mi sposto. Macchina che... Eccomi qua. Allora, senta, io mi domandavo, visto che la legge dice che non bisogna rimettere acqua, sporca, insomma, sì, acqua che non fa certo bene del sottosuolo, è normale che questa rimettere la stessa acqua non può essere acqua distillata. Seconda puntata, una volta che voi avete estratto il petrolio dalle rocce porose, che comunque sia, bene o male, per poter essere estratto bisogna dargli una pressione di qualche liquido tale che la porosità delle pietre, come una spugna, faccia espellere il petrolio. Oh, contemporaneamente come fate ad estrarre il petrolio e contemporaneamente mantenere la stessa pressione, la stessa staticità, rimettendo l'acqua nel giacimento? Perché il giacimento, se lo svuotate, per un po' di tempo rimane svuotato, supponiamo. Lo stesso metodo viene utilizzato per estrarre l'olio di Sansa, che poi si chiama di Sansa, dalle macine delle, o diciamo della parte interna delle olive. Non è proprio lo stesso, non è una pietra porosa, perché la pietra porosa non dà il petrolio per conto suo, deve essere in qualche modo portata con una pressione a farlo espellere. Sì, ma non è proprio lo stesso sistema, perché dunque le pressioni a cui lavorano i diversi tipi di pozzi, bisogna distinguere se si tratta ovviamente di che tipo di fonti fossili, dipendono da stratigrafie sottostanti A, B, il tipo di giacimento, quindi il tipo di pozzo, non solo il diametro, la sua profondità, le pressioni a cui si lavora per segmento sono diverse, quindi questa è proprio la specializzazione dell'ingegneria estrattiva, per così dire. Ma il petrolio liquido viene su per pressione, il petrolio che è impregnato nelle rocce porose non viene da solo. Noi stiamo parlando infatti del prodotto di separazione dell'acqua una volta che l'ho estratto. Comunque la sua domanda è, dice, quella non è un'acqua pura, al netto, voglio dire, dei dettagli per cui ci vorrebbe un ingegnere minerario. Roberto da Bologna, sentiamo Roberto da Bologna. Sì, buonasera a tutti. Io sono un intermediario in materia di rifiuti, quindi sono regolarmente iscritto all'albo gestori ambientali nelle categorie 4, 5 e 8 e mi occupo appunto di smaltimento rifiuti. Mi chiedo come mai esistano multinazionali, adesso non sto a fare nomi, ma multinazionali, che qua in Italia si possono permettere, al contrario di me, di noleggiare un prodotto. Adesso io non vorrei uscire dal seminato perché non mi occupo molto di materia petrolifera, però noleggiano un solvente piuttosto che uno straccio, cioè semplicemente nelle autofficine per la pulizia dei pezzi, per pulirsi le mani, per pulire qualcosa, e se lo riportano via senza i formulari di smaltimento. Ma se lo faccio io e mi fermano per strada, mi arrestano. Allora, io non sono un esperto di categorie per tipo di prodotto dello smaltimento, e tantomeno di quello. Sono un appassionato di questioni minerarie relative all'estrazione delle fonti fossili, questo sì, ma non di quello di cui lui ha parlato. Quindi io prendo atto di quello che ha detto, però non posso darle una risposta. Quello che le posso dire è che le normative italiane vengono considerate in Europa tra le più dentate da questo punto di vista. Sentiamo ancora Emanuele da Perugia. Sì, buonasera, sì. Oscar, sono Emanuele. Sì. Allora, io intervengo perché non sono un petroliere, sono un imprenditore che opera nelle energie rinnovabili. Sì. E le dico, soprattutto nelle energie rinnovabili, tipo biometano, biogas, eccetera, che le normative in Italia, così come avete scoperto voi con questa storia del petrolio che io non conoscevo, sembrano fatte appositamente perché possono venire interpretate. Ecco. E siccome da qualche anno la politica è sotto ricatto da parte di qualsiasi gruppuscolo che si muove in una certa direzione e in un certo ambiente, nel momento in cui viene sollevato il problema, trovano subito qualcuno, che sia un magistrato o qualcun altro, che interpreta la norma in allora, Emanuele, io la ringrazio, perché non sostituendoci, non è questa la nostra intenzione, non è questo il nostro mestiere, ai magistrati, ripeto, però quello che è evidente è che se uno va a vedere le norme trova contraddizioni come questi. Che conclusioni ne trae, Jacopo? Siamo un paese assolutamente stravagante, questo è sicuro. Per non dire di matti, che è un pochino la mia opinione. Io mi posso permettere, siccome sono un ragazzaccio un po' vecchio, di essere un pochino più estremo, però guardate, è un po' un paese di matti, un paese che mette A è un reato e il contrario di A è anche un reato, perché io sfido qualunque compagnia. Comunque stiamo dando anche un calcio in faccia a tutti gli operatori mondiali dell'energia, buon pro vi faccia se questa è la vostra intenzione. Io ricordo solo che tutte le rinnovabili sono ipersussidiate sia dallo Stato, cioè da noi, che dal consumatore finale in bolletta. Ci sentiamo domani mattina alle 8:15. A me, Alessandro Milan, attenti a noi due.